so se sia timore, non so se sia timore, se sia pena, se amore, se sia pietà, se speme. Pace di che cos'è e che cos'è? Sento che l'alma teme, eppur non so di che, non so se sia timore, se pena, se amore, se sia pietà, se amore, se pena, se timore. Pace di che cos'è, non so se pena, se amore. Pace di che cos'è, cos'è, pace di che cos'è. Cinto da mille affanni, non trovo loco pace, temo di frodi inganni, e l'alma ognore si sface, eppur non sa perché, non sa perché. Sento che l'alma teme, eppur non so di che, non so se sia timore, non so se sia timore, se sia pena, se amore, se sia pietà, se speme. Pace di che cos'è e che cos'è? Sento che l'alma teme, eppur non so di che, non so se sia timore, se pena, se amore. Se sia pietà, se amore, se pena, se timore. Ah, che cos'è? Non so se pena.